e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e ben ritrovati a Cuore Denari. Oggi naturalmente anche noi torniamo ad occuparci della cronaca delle ultime ore, le vicende di Bruxelles e le nuove, forse ancora più forti, preoccupazioni che si stanno scatenando in ognuno di noi alla luce degli attacchi terroristici che purtroppo si stanno ripetendo in tutta Europa. C'è la paura di stare nelle nostre città che non consideriamo forse più completamente al sicuro, la paura di muoversi, di viaggiare, di fare un progetto di spostamento che può essere necessario per tante ragioni, dalle vacanze al lavoro a questioni di famiglia. Lo scorso anno su scala internazionale c'è stata una vera e propria escalation di questi fatti e ogni volta ci siamo trovati a commentarli, a ragionare sulle conseguenze emotive ma anche pratiche, e declineremo tutti questi aspetti oggi dalla nostra prospettiva Cuore e Denari. Partiremo ancora una volta da un punto della situazione sulle misure di sicurezza dei nostri aeroporti. Vogliamo anche dare spazio a chi magari proprio in occasione delle vacanze di Pasqua aveva già organizzato un viaggio, magari proprio scegliendo una capitale europea, e ora senta una preoccupazione che non può ignorare. 800 24 00 24 è il numero verde come sempre a vostra disposizione. Raccontateci se e come le notizie cambieranno le decisioni che avevate preso per questi giorni o anche per le prossime settimane. Anche se avete grandi esperienze di viaggio, la paura di questi ultimi fatti vi sta facendo fare una riflessione su possibili nuovi vostri spostamenti. Se non avevate viaggi in programma, come la pensate? Siete d'accordo? La paura può fermarci? Eh sì, a volte la paura ci ferma. La paura la conosciamo tutti, ciascuno di noi si confronta quotidianamente con le proprie paure mettendo in atto strategie per affrontarle o, perché no, per evitarle. Ma oggi rifletteremo per trovare una risposta a questa domanda: cosa succede dentro di noi quando la paura che proviamo ci viene trasmessa ed è condivisa dalla società? È una paura più grande di noi, per la quale ci sembra di non avere strumenti abbastanza efficaci per superarlo, metabolizzarla. Così entriamo o rischiamo di entrare in uno stato di agitazione che ci porta a chiederci, a evitare le situazioni che ci paiono più rischiose. Dalle Torri Gemelle in poi, dopo ogni attacco terroristico, Deborah, per un certo periodo è inevitabile, no? La gente ha volato meno, ha viaggiato meno, ha frequentato meno ristoranti, cinema, una sorta di evitamento che però rischia di renderci psicologicamente più fragili. Ne parleremo con i nostri esperti, a cui però chiederemo anche di aiutarci a capire la differenza tra la paura che si attiva quando pensiamo di essere potenziali vittime di attentati terroristici e quella che nasce dal timore che ai nostri figli, ai nostri cari possa succedere qualcosa, un incidente proprio come quello che è costato la vita alle nostre ragazze che frequentavano l'Erasmus. Allora 800 24 00 24 per intervenire e parlarne con noi. It's okay, it's okay, non era tanto ok la situazione di ieri mattina all'aeroporto di Bruxelles. Voci e suoni che non dimenticheremo facilmente, che ci troviamo a commentare un po' troppo spesso da qualche mese a questa parte. Quelle che vi abbiamo riproposto sono quelle che appunto abbiamo raccolto di nuovo da tutti i contributi che abbiamo visto in questi giorni sui telegiornali dall'aeroporto di Bruxelles subito dopo appunto l'attentato di ieri mattina. Ce lo siamo chiesti tutti come sia potuto succedere tutto questo in un aeroporto internazionale che è nel cuore dell'Europa, dove transitano ogni giorno oltre a migliaia di persone appunto anche funzionari, europarlamentari, capi di Stato e di governo, per cui davvero una condizione in cui la sicurezza dovrebbe essere triplicata al massimo. E naturalmente il pensiero va subito anche ai nostri aeroporti, quelli da cui partiamo per i nostri viaggi, per le nostre vacanze, per il nostro lavoro, quelli delle nostre città. Già ieri mattina abbiamo parlato delle misure di sicurezza in atto e per gli aggiornamenti sulla situazione degli aeroporti italiani. Anche stamattina ringraziamo per la sua disponibilità l'ingegner Giuseppe Daniele Carrabba, direttore centrale coordinamento aeroporti ENAC, che salutiamo. Ingegnere, buongiorno, ben ritrovato, grazie. Sì, buongiorno a lei. Il suo telefono costantemente occupato in queste ultime ore appunto ha dato un po' retta a tutti i giornalisti che lo hanno coinvolto per avere informazioni sul monitoraggio ENAC che viene fatto dalla loro sala crisi. Adesso ne parleremo. Peraltro volevo anche raccontare, lo abbiamo appreso poco fa che tutti i voli aerei da e per Bruxelles in arrivo e partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate anche oggi sono stati annullati a seguito appunto degli attentati in Belgio. Secondo quanto si è appreso, solo un aereo della compagnia di bandiera belga, la Brussels Airlines, potrebbe atterrare questa sera a Malpensa con i primi viaggiatori in rientro appunto dalla capitale belga. Ingegner Carrabba, qual è in questo momento l'attività della vostra sala crisi? Che tipo di monitoraggio ulteriore state conducendo sul traffico negli scali italiani? Allora, guardi, riprendendo il discorso di ieri, direi che i filoni sono due. Il primo è quello che riguarda ovviamente la situazione del nostro paese, quindi gli aeroporti italiani. L'altro è quello strettamente collegato a Bruxelles. Io ho appena finito una call conference con l'unità di crisi europea, dove sono rappresentati tutti i paesi europei, UE e non UE, e la situazione di Bruxelles al momento le posso dire che non è assolutamente serena, nel senso che le verifiche che devono essere fatte, l'evaluation dei danni procurati ieri durante gli attentati è in corso, ma non è così semplice. Quindi io credo, nonostante le voci, che prima del weekend non riprenderà sicuramente l'attività di Bruxelles. Ieri è stato consentito, e anche nella giornata di oggi, lo spostamento di alcuni aeroplani che stavano lì, ovviamente senza passeggeri, per avviarli verso altri aeroporti sia del Belgio o di altri paesi vicini, per permettere appunto agli aeroplani di spostarsi, ma che appunto l'aeroporto di Bruxelles possa riaprire oggi ho forti dubbi. Tenga conto che fra l'altro anche nelle ispezioni che sta conducendo l'autorità di polizia belga, ieri sera alle 7 è stato trovato un altro ordigno, quindi la situazione è abbastanza complessa. Le devo dire che nella chiacchierata che abbiamo fatto, quindi rappresentando la situazione di ogni paese, quello che si stava facendo, quello che si voleva fare, c'è molta attenzione, non ci sono però anche preoccupazioni fra virgolette che possano portare a un blocco di quello. Io sentivo appunto viaggi, le preoccupazioni, le paure, a un blocco dei voli in Europa o un ulteriore inasprimento. Quindi, al di là della situazione a Bruxelles, dove c'è un livello 4 e una attenzione particolare, ovviamente, gli altri paesi non hanno ulteriormente attivato azioni. Però essendo naturalmente paese, bloccato lo scalo di Bruxelles, è chiaro che molte compagnie devono riorganizzare le loro destinazioni per chi in qualche modo deve raggiungere comunque quell'area. Ma per quello che riguarda invece gli scali italiani, ingegner Carrabba. Per quanto riguarda gli scali italiani, come le avevo anticipato ieri, ci sono state delle riunioni, i vari comitati di sicurezza aeroportuali, che era il consesso migliore dove discutere di quelle che potevano essere azioni preventive, che non sono rivolte a aumentare le misure di security, ma sono esclusivamente rivolte al fatto che tutti gli operatori aeroportuali prestino attenzione a situazioni che magari in condizioni normali non noti, e invece in condizioni di allerta è importante invece che siano notate. Traduco: tanti occhi sono meglio di pochi occhi. In più già oggi si fanno delle verifiche, anche prima dell'attentato di ieri, in aeroporto, in aerostazione, prima di passare i controlli, perché ho sentito appunto: ma com'è possibile? Certo, com'è possibile quando la mente umana esce fuori da ogni situazione di logica, solamente inaccettabile quello che succede. Esatto. Ancora quelle voci che lei ha fatto sentire risuonano anche qui da noi, con tutto quello che abbiamo visto nei telegiornali ieri seguendo questa vicenda e tutt'oggi. Ma ecco, dicevo questo, quello che noi stiamo facendo negli aeroporti è una maggiore azione preventiva. Quindi di verifica. Ecco, per esempio, ingegner Carrabba, per chi sta partendo per un viaggio qualsiasi, no? Che tipo di situazione si troverà ad affrontare? Presso i check-in, ad esempio, abbiamo delle raccomandazioni da fare ai nostri ascoltatori, banalmente, tipo non portatevi dietro delle cose inutili che magari obbligheranno coloro che sono addetti ai controlli ad aprire le valigie, a triplicare il controllo all'interno appunto del bagaglio, per cui già questa potrebbe essere una raccomandazione di buon senso. Brava, assolutamente di buon senso, perché quando purtroppo viene riscontrato all'interno del bagaglio a mano di un passeggero un oggetto che non è appunto possibile trasportare dall'altra parte, a quel punto vengono fatti dei controlli ancora più accurati, perché questa è la regola: se trovo qualcosa che non va in un bagaglio, allora quel passeggero va ulteriormente controllato e verificato, viene svuotato il suo bagaglio, verificato nel dettaglio. Questo non significa che non viene fatto generalmente, perché noi, fra l'altro, questo lo ricordo, lo voglio ricordare perché ho sentito anche stamattina, noi manteniamo il livello dei dopo fatti di Parigi, cioè, quindi l'Italia ha già un livello di attenzione elevato, che è il livello 2, e nel nostro settore appunto viene considerato come intermediate, quindi sì, intermedio, livello intermedio, quindi c'è una grossa attenzione. E ovviamente quello che ha detto lei è importante: portarsi roba che non serve significa semplicemente rallentare le file, creare più lavoro agli operatori addetti ai controlli di sicurezza. Quello che ti puoi aspettare quando arrivi oggi in un'aerostazione e in tutto il nostro territorio nazionale è che qualcuno ti si avvicini prima che tu hai fatto addirittura le pratiche, quindi il check-in o i controlli, e ti chieda il documento, ti chieda la carta d'imbarco, hai accanto a te un cane che ti annusa perché ci sono i cani antiesplosivo. Quindi stiamo cercando di mettere delle azioni preventive in maniera da scoraggiare e poter eventualmente creare una barriera ulteriore, o vedere se ci sono auto parcheggiate fuori all'aerostazione. Quindi sono delle azioni mirate esclusivamente a queste eventuali situazioni. Ingegner Carraba, sì. No, stavo solo salutandola perché il tempo nostra disposizione. Se ha però un'ultima raccomandazione che ci teneva a dare, naturalmente ci dica. No, non è, cioè, più che una raccomandazione, dico semplicemente che oggi non è un problema del trasporto aereo, non è un problema di paure, è un problema che forse tutti quanti noi dobbiamo cercare veramente di acquistare la nostra vita, perché quello che stiamo cercando di fare è di sconvolgere la nostra vita. Quindi, grazie. Comunque, c'è un sistema che funziona, questo è quello che vorrei. Grazie Ingegner Carraba, direttore centrale coordinamento aeroporti ENAC. Intanto buon lavoro anche a voi, alla vostra sala crisi, operativa per molte ore al giorno, 24 ore su 24. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo il traffico e poi ritorniamo in diretta tra pochissimo. Cuore e denari. Ed eccoci, siamo tornati insieme, ancora tutti scossi dagli attentati terroristici di ieri a Bruxelles. Stiamo rivivendo un doloroso déjà vu, il clima del 13 novembre di Parigi. Lo facciamo con un senso di impotenza, frustrazione, paura, sentimenti per certi versi analoghi a quelli che abbiamo provato anche per l'incidente in Spagna in cui hanno perso la vita le nostre ragazze. E questo perché ogni evento a cui assistiamo o di cui abbiamo notizie attiva delle emozioni, è nella natura dell'uomo, animale sociale capace di empatia e compassione. La nostra capacità di relazionarci con l'altro, di capirne le emozioni, persino di provarle quando le vediamo, è dovuta alla presenza di neuroni specchio, una scoperta made in Italy, fatti alla metà degli anni 90 dal professor Giacomo Rizzolatti e dalla sua equipe del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Parma. Bene, oggi abbiamo il piacere di avere il professor Rizzolatti in linea con noi e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo per essere a Cuore Denari. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, sono i neuroni specchio a renderci empatici e compassionevoli, quindi... Dunque, lei ha detto bene prima, noi abbiamo scoperto negli anni 90 questi neuroni specchio, ma allora quello che abbiamo visto era più sulle azioni che i psicologi definiscono fredde, a ferro, l'oggetto, lo smuovo. Recentemente abbiamo visto che questo è vero anche per le emozioni, cioè nel momento in cui io provo un'emozione, perché è uno stimolo emozionale, mi colpisce, dolore, disgusto, risata, mi si attivano esattamente gli stessi neuroni quando io invece vedo un altro soffrire o avere una di queste emozioni. Capisce la differenza? Non è che io capisco, ma io soffro perché sono gli stessi neuroni che si attivano. quando direi soffro. Che questo è il messaggio che abbiamo mandato in questi ultimi anni, cioè non è solo una cosa cognitiva, ma è una cosa realmente dentro di noi, cioè siamo attaccati agli altri in questa maniera emozionale. Insomma, per certi versi possiamo dire, professore, che questi neuroni ci rendono migliori, insomma ci attrezzano per relazionarci con l'altro, che è la condizione fondamentale per vivere in una società. Ecco, la seconda parte è vera, ci attrezzano per essere in grado di relazionarci con gli altri. Migliori non lo so, cioè non vorrei cadere così nell'equivoco alla Rousseau, cioè nasciamo buoni e poi la società ci rende cattivi. No, noi nasciamo con dei meccanismi che ci permettono di entrare in relazione sana, normale con gli altri. Professore, però, ma questi meccanismi, sì? Questo meccanismo di rispecchiamento, possiamo definirlo così, è condizionato da altri fattori? Certo, questa è una cosa che la gente dovrebbe capire, che noi abbiamo dei meccanismi biologici. Questi meccanismi biologici poi sono modificati, modulati dalla cultura. Cioè, per quello dicevo, noi non è che nasciamo buoni e cattivi, nasciamo con certi meccanismi. Ora, se la cultura li rinforza, noi diventiamo buoni. Se la cultura dice di no, noi diventiamo cattivi. Quindi noi siamo un terreno neutro. Io così nelle mie conferenze cito, non mi piace parlare dei tempi moderni perché mi è più difficile, ma se lei pensa agli anni 30 e che cosa è successo in Germania, uno dei paesi più civili del mondo, grazie alla propaganda di Goebbels, alla propaganda nazista, tanto da rendere una parte della popolazione come non esseri umani, non come me, vi dimostra come è possibile modificare questo nostro stato naturale in qualcosa di cattivo. Quindi il gioco è la cultura, è una battaglia culturale. Dal punto di vista biologico siamo a posto, però bisogna fare una battaglia culturale per dire che tu ed io siamo uguali, siamo la stessa cosa, non siamo oggetti. Invito naturalmente i nostri ascoltatori all'800 24 00 24 di intervenire in diretta, magari per fare una domanda anche al professor Rizzolatti, a cui chiedo anche di aiutarci a capire, se è possibile, cosa succede nella mente di un terrorista. Per lanciare una bomba non ci può essere empatia né compassione. Io penso che, io ho fatto l'esempio del nazismo, ma penso che questi terroristi in qualche maniera, perché sentono parlare i loro predicatori eccetera, a un certo punto non considerano che quelle persone che hanno ucciso all'aeroporto di Bruxelles siano esseri umani come loro. Cioè in qualche maniera chi è, adesso non vorrei dire chi è musulmano, ma chi la pensa come loro è un vero uomo, chi non la pensa come uomo non è un uomo, e quindi perché non ucciderlo se mi conviene? Cioè, c'è una logica aberrante in questo, perché se io considero che gli esseri umani sono simili a me, io non potrò mai ucciderli. Se li considero cose, posso distruggere, come butto via una vecchia macchina o una vecchia bicicletta. Professore, è questo il terribile che c'è nella mente di queste persone. Professore, la negazione che gli altri sono simili a loro. Alcuni messaggi, sto sintetizzando, che stanno arrivando al 349-238-6666, sollevano il fatto che ci sentiamo molto vicini ai fatti che accadono in Europa, mentre quelli che capitano appena un pochino fuori, non, anche le morti, le stragi, non fanno in noi, non provocano le stesse, lo stesso coinvolgimento. Professor Rizzolatti. Beh, è una domanda un po' ingenua, perché in realtà proprio per ragioni evolutive noi innanzitutto vogliamo bene che ci sta accanto. Siamo più preoccupati del nostro vicino che della persona che abita a due isolati di distanza. Ecco. Se uno ha un figlio si interessa innanzitutto di quel figlio lì, non di un bambino che abita, certo, che so io, nel Vietnam. È un processo evolutivo, cioè non... Professore, perché abbiamo il GR, ci sentiamo subito dopo il GR con il professor Rizzolatti, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari. Oggi vi stiamo chiedendo di raccontarci all'800 24 00 24 se, come le notizie arrivate ieri da Bruxelles, stanno influendo su alcune vostre scelte, decisioni, abitudini, stato d'animo, dal punto di vista quindi del cuore e dei denari. La paura per noi e per i nostri cari può in alcuni casi prendere il sopravvento. Voi come lo state vivendo questo momento? Come la pensate? Avete già rimesso in discussione qualche piano previsto per le prossime settimane? Qual è il vostro modo di reagire? Raccontatecelo anche al 349-238-6666, ma Nicoletta, dovevamo completare il nostro ragionamento. Certo, abbiamo ancora in linea con noi il professor Giacomo Rizzolatti, che ringraziamo perché sappiamo che deve partire, ma dovevamo concludere, professor Rizzolatti, un pensiero, un ragionamento. Ecco, volevo concludere su quello che chiedeva quel lettore, che sì, diceva: perché ci interessiamo più di quello che ci accade vicino rispetto a quello che ci accade lontano? Questo direi che è molto naturale, per ragioni evolutive, perché noi dobbiamo innanzitutto interessarci a chi dobbiamo allevare e così via. Ma vorrei concludere con una frase di Madre Teresa di Calcutta, che scrive: poi tu sai e conosci i componenti della tua famiglia, te ne interessi, cerchi di renderli felici, è questo che devi fare innanzitutto, solo in seguito potrai darti pensiero dei poveri dell'India e di altre parti del mondo. Qui è molto profondo questo pensiero, perché distingue tra essere buoni e essere nevrotici. Uno cui non importa niente dei suoi cari, e se ne va in India non è che sia buono, è che è un disadattato. Professor Rizzolatti, mi piace se qualcuno si offende, ma è no, così. Ma è uno spunto sicuramente di riflessione che vorremmo condividere naturalmente anche con i nostri ascoltatori. Grazie, professor Rizzolatti, per essere stato con noi. Arrivederci, a presto, speriamo. A presto. Grazie. E noi andiamo avanti parlando adesso di viaggi. Anche se avete grandi esperienze di viaggio, la paura di questi giorni vi sta facendo fare una riflessione su nuovi possibili spostamenti che vi riguardano, non solo per andare naturalmente in vacanza, non vorrei che si riducesse a questo il nostro ragionamento di stamattina. Spostamenti sono necessari per ragioni di lavoro, per raggiungere dei familiari che vivono lontani, per cui in qualche maniera non è che possiamo bloccare adesso la nostra vita. Allora, se non avevate viaggi in programma, come la pensate? Siete d'accordo su chi invece in questo momento si fa condizionare dalla paura e blocca ogni iniziativa di spostamento? Abbiamo già tantissime testimonianze, certo, pronte ad essere raccolte all'800 24 00 24. Direi, Nicoletta, di dare il benvenuto ai nostri ospiti, e poi vorrei leggere un messaggio di un ascoltatore che ci scrive che stiamo alimentando la paura. Noi cerchiamo di leggere la paura per in qualche modo metabolizzarla, per non rimanere ingabbiate. Quindi siamo assolutamente aperti ai vostri interventi e ai vostri contributi. C'è anche chi dice il contrario, invece, sì, però, grazie per il tono con cui state affrontando la questione stamattina. Ecco, sai che dalle critiche si impara sempre. Intanto, benvenuti ai nostri ospiti. Buongiorno, intanto benvenuta Pier Giorgio Reggio, direttore commerciale della divisione turismo del gruppo Blue Team Travel. Benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Ci racconterà naturalmente che cosa si deve fare in questi giorni, soprattutto se si decide di non spostarsi più, quindi annullamenti, viaggi, revisione dei propri programmi, assicurazioni in viaggio, insomma tutto l'universo mondo che ci tocca affrontare quando purtroppo commentiamo questi fatti. E diamo il benvenuto al professor Fabio Sbattella, psicologo e psicoterapeuta, insegna psicologia dell'emergenza all'Università Cattolica di Milano. Professore, grazie per essere qui. Grazie a voi, bentrovati anche gli ascoltatori. Ecco, lei ci aiuterà a leggere un pochino le nostre decisioni, il tentativo che molti di noi ci stanno segnalando, sì, no? Di magari evitare un viaggio, posticiparlo, oppure la fatica che si fa ad affrontare una situazione nel tornare alla normalità, quando non ci sembra assolutamente normale. Certamente. Nico da Varese, direi, non è Nico Nicoletta, ma è Nico da Varese in questo caso, direi di aprire con la testimonianza di un ascoltatore, poi diamo il via al dibattito tra di noi. Nico, benvenuto. Lei viaggia da moltissimi anni. Quanti voli all'attivo? Non come pilota, naturalmente. Tutti gli ascoltatori, io sono considerato forse un grande viaggiatore, nel senso che ho superato i 2500 voli. E quindi? Molte esperienze anche non positive, insomma qualche momento di paura, da quello che vedo dalle anticipazioni che ci rilascia il nostro centralino. Certo. Nico, ecco, come vuole contribuire alla discussione di stamattina? Dunque, io vorrei tranquillizzare il più possibile tutti coloro che mi stanno sentendo, perché da oltre direi 45 anni io volo, ho volato con gli aerei turbo elica e poi su gli aerei più moderni. Io nella mia esperienza posso annoverare alcuni casi che li definisco positivi, nel senso che li ho superati, e tutte le esperienze, anche le peggiori, quando sono superate vengono ricordate come un'esperienza costruttiva, utile alla vita. Dunque, ricordo circa 25-26 anni fa un dirottamento da Algeri, quindi con l'Italia, che poi si concluse bene, ma gli attimi di terrore li ho vissuti, nel senso che l'aereo prima tentò di atterrare a Tripoli, poi a Malta. Ma insomma, il tema, Nico, è che lei non si è lasciato influenzare da quell'episodio e ha continuato la sua vita di viaggiatore molto intensa, senza più alcuna paura. C'è però invece chi la pensa diversamente, perché vedo Antonio da Roma che voleva andare a Parigi a Pasqua, ma Antonio ha fatto marcia indietro. Antonio, benvenuto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Esattamente. E io, guardi, ascolto sempre con attenzione e anche con curiosità l'opinione di chi non la pensa come me. E trovo che si faccia molta filosofia e si sia poco realistici. Cioè, mi dica un po' come si fa a godersi una vacanza in serenità ad andare a Parigi fra due giorni con questo clima. Allora, se si tratta di un viaggio irrinunciabile per motivi di famiglia, di lavoro, allora la vita deve continuare. Certo. Proviamo a darle. Allora, c'è una persona che abita a Bologna, si chiama Laura, esatto. Al telefono in linea con noi, che può rispondere a questa domanda. Laura, come si fa ad andare a Parigi? Buongiorno bimbe. Buongiorno. Io partirò lo stesso. E andrà proprio a Parigi, cioè certo, Antonio non va? Non mi spavento assolutamente, l'anno scorso sono andata in Egitto, non mi sono assolutamente spaventata, io non permetterò a nessuno di togliermi la mia libertà. Laura, grazie. Abbiamo voluto fare questa incetta di telefonate questa mattina proprio per dare materiale di commento appunto ai nostri ospiti di quest'oggi. Quindi grazie a tutti intanto per aver contribuito ad animare appunto la prima parte del programma. Pier Giorgio Reggio, che effetto hanno su chi opera nel turismo queste notizie, queste reazioni da parte delle persone? Vi capita di dover gestire anche le paure di chi si rivolge a voi per la pianificazione di un viaggio? Che risposte state dando in questa fase, non solo per Bruxelles, ma appunto siamo dovuti tornare indietro anche ai fatti di Parigi con le testimonianze dei nostri due ultimi ascoltatori? Ma guardi, le risposte sono assolutamente sempre differenti a seconda del cliente che ci troviamo davanti, anche perché noi gestiamo sia viaggi di lavoro e quindi tutto ciò che è trasferta per quelle che sono le aziende, sia quelli che sono i viaggi di piacere, e a seconda della paura e quindi dall'evento che ha creato la paura, riscontriamo da parte del nostro cliente, sia che sia un viaggiatore d'affari che di un viaggiatore turistico, delle reazioni completamente differenti. Quando l'evento colpisce una struttura alberghiera da vacanza, la paura è sicuramente molto più dilagante, perché colpisce il turista e lo colpisce in un momento in cui il turista dovrebbe essere nel momento più sereno, no? E quindi da quel punto di vista devo dire che spesso le reazioni sono molto più amplificate e si cerca sempre di o rinunciare alla vacanza o cambiare destinazione, ricercando destinazioni apparentemente più sicure. In quel caso lì noi gestiamo naturalmente la situazione e sono, da quel punto di vista, condivido l'ascoltatore di prima, che quando si parla di vacanza bisogna partire con lo spirito corretto, con lo spirito giusto. Partire per una vacanza con uno spirito di paura diventa abbastanza complicato. Non è più una vacanza. No, anche perché poi diventa anche difficile godere quello che è un momento. Ciò non toglie che non bisogna assolutamente farsi condizionare, quindi da quel punto di vista bisogna anche avere la giusta capacità di reagire. Quando invece gli eventi, come in questo caso, toccano città europee oppure comunque la metropolitana di Bruxelles oppure gli eventi di Parigi, si entra in dinamiche completamente differenti. Quindi da un punto di vista legato al viaggio di vacanza non riscontriamo attualmente grandi richieste di annullamento, di modifiche o quant'altro, anche perché bisognerebbe in questo momento avere anche paura di prendere la metropolitana. visto l'evento di Bruxelles, certo. Eppure la gente metropolitana continua ad andarci. O a Parigi basterebbe, no? Per gli eventi di Parigi andare a bere un aperitivo con degli amici al venerdì sera in una piazza. Assolutamente. Quindi da quel punto di vista, gli eventi che raggiungono in questo momento città molto vicine alle nostre condizionano sul viaggio meno di quello che può condizionare un evento terroristico su una destinazione da vacanza. Questo è un po' quello che noi riscontriamo. Certo, ma il vostro network oggi come considera appunto le capitali europee? Ma allora, al netto della destinazione Bruxelles, che in questo momento l'aeroporto è chiuso e quindi noi siamo attivi come gruppo Blue Team su tutte quelle che sono le riprotezioni, secondo quelle che sono le dichiarazioni delle varie compagnie aeree, le altre capitali europee sono tutte come dire, aperte al traffico e quindi i viaggi sia di lavoro che di vacanza proseguono in maniera assolutamente normale. Allora, per chi aveva tra l'altro pianificato di andare in Francia, in Belgio, comunque nel nord Europa a Pasqua, lei diceva, Reggio, appunto, siamo operativi sul tema della riprotezione. Ecco, che cosa significa riprotezione in circostanze come questa? Allora, la riprotezione in questo momento coinvolge soltanto l'aeroporto di Bruxelles, anche perché l'aeroporto è chiuso e presumibilmente per come i prossimi giorni. Il funzionario dell'ENAC. Per esempio, io riporto quella che sono le policy di riprotezione di Alitalia, parla di riprotezioni o di annullamenti per viaggi fino al 29 di marzo. È probabile che a seconda di quelle che sono le notizie che arriveranno sulla possibile riapertura dell'aeroporto, poi le policy di riprotezione delle varie compagnie aeree verranno eventualmente prolungate. Quindi la riprotezione significa proprio gestire in questo momento la contingenza, diciamo, delle persone che devono essere portate in un'altra città. Il viaggiatore che ha un biglietto aereo, che sia di vacanza o di lavoro, non importa, ma su Bruxelles fino al 29 di marzo può chiedere la riprotezione, cioè cambiare la destinazione, cambiare la data oppure chiedere l'annullamento. Perfetto. Allora, è chiaro che noi stiamo, professor Sbatella, viviamo in una società sempre più attenta ai rischi e nello stesso tempo sempre più esposta ai pericoli. In questo contesto particolare, qual è il ruolo e il contributo della psicologia dell'emergenza? I nostri ascoltatori avranno sentito nella sua qualifica psicologia dell'emergenza, sentiamo parlare di psicologia cognitivo-comportamentale, però che cos'è la psicologia dell'emergenza e soprattutto... e questa è una disciplina che negli ultimi anni si è caratterizzata per il suo rapido e importante sviluppo. Quale contributo può dare in questa situazione, per questo tipo di emergenza? Sì, la psicologia dell'emergenza è non un approccio ma un ambito di studio. In realtà abbiamo dei primi studi anche in Italia nel 1908, ma è venuta la ribalta con questi termini a partire del 2000. Di cosa ci occupiamo? Di situazioni particolari, di contesti interattivi, cioè di modi di stare insieme caratterizzati da alcuni elementi. Primo, la percezione di una minaccia che viene potenzialmente a ledere la vita o la salute delle persone. Secondo, una richiesta di attivazione rapida, di rapidi comportamenti, di decisioni. Terzo, soprattutto la percezione di una sproporzione tra le risorse che le persone hanno e le richieste che vengono dall'ambiente. Questo elemento è molto importante perché la situazione emergenziale è caratterizzata dalle emozioni e dalla percezione di non farcela. Sì. C'è emergenza tutte le volte che le persone, i singoli, le organizzazioni si sentono in una situazione di non farcela. Sì. Nuova e incapaci di in qualche modo di reagire, di trovare delle risposte immediate. Sì, non di per sé, di non avere abbastanza risposte, quindi di avere alcune risposte ma non sufficienti. Allora, questa condizione particolare muove dei processi psichici e dei comportamenti diversi dell'ordinario. Di questo noi ci occupiamo in particolare, capire come funziona la mente, il corpo, le emozioni all'interno della situazione emergenziale. E l'attentato di Bruxelles, professor Sbatella, fa riaffiorare paure e ansie con cui tutti ci auguravamo di non doverci più confrontare. No, è un disagio che prende forme diverse, diverse sfumature, un disagio che noi già conosciamo, ma che in qualche modo appare sempre nuovo, è uno strano déjà vu, per certi versi lo conosciamo, per altri ci stupisce e ci ritrova e ci fa avere la consapevolezza di essere comunque inadeguati. Lo siamo noi che la viviamo, no? Di riflesso, questa condizione di paura, di fragilità, e naturalmente immaginiamo le persone che invece la vivono vicino, molto vicino alla loro pelle. Professor Sbattella. Sì, quando abbiamo notizia di eventi gravi, di minacce, la nostra mente, anche quella di gruppo, ha diversi strumenti per difendersi, per gestire le emozioni sollevate. Una di queste è l'allontanamento, cioè l'idea che il pericolo non è così vicino, non concerne la persona e quindi può essere gestito con emozioni più tranquille. La condivisione con persone che sentiamo molto simili a noi, perché abbiamo frequentato gli stessi luoghi, perché apparteniamo allo stesso gruppo, che magari può essere l'identificazione con l'Europa di cui facciamo parte, fa saltare queste difese e quindi le emozioni vengono profondamente condivise. A questo punto vorrei però fare una riflessione sulla paura, termine che è stato più volte citato, ricordando che la paura di per sé è un'emozione fondamentale ed è utile alla sopravvivenza. Certo. È molto importante. Un po' come la febbre e gli anticorpi. Certo, sì, ma sì, il problema è che quando diventa troppo forte diventa poi paralizzante. Esatto. Infatti la paura è utile quando spinge per noi un comportamento adattativo. E va ricordato, un comportamento adattativo vuol dire un comportamento di benessere e di gioia. Quindi noi abbiamo paura perché vogliamo gioire, vogliamo godere la vita. E questo è molto importante. Il rapporto tra lettura, paura e certo. gioia è molto importante. Perché le persone ed addirittura vanno al cinema per avere paura. E poi dire meno male che sono al mondo, no? Cioè godiamoci la Pasqua, godiamoci le vacanze, giorno per giorno, minuto per minuto. E la paura a volte ci insegna questo, ecco. Noi cercheremo oggi, nella seconda parte anche della trasmissione, per la parte di cuore, a capire come non aver paura della nostra paura, che sembra uno scioglilingua, ma è un passo importante per uscire fuori da questa situazione di impasse. Penso che l'ora sia buona. Sì, per però forse l'ascoltatore possiamo sentire anche le borse. Sì, sentirlo. Allora, Fabio... Andiamo con... Allora, magari possiamo incamerare le due telefonate e poi rispondere dopo la borsa. Che dice, esatto. Fabio, anche perché ne abbiamo una per il professor Sbattella e una per Giorgio Reggio. Così li mettiamo al lavoro, esatto. Poi tra poco ci raggiungerà anche Alberto Pellai. Esatto. Come raccontare i fatti ai bambini, agli adolescenti. Torneremo anche sulla paura che molti genitori stanno provando per i loro figli in seguito alla tragedia che ci ha tolto, no? le ragazze dell'Erasmus, ragazze che sentiamo in cui ciascun genitore un po' ha riconosciuto la propria figlia, no? Io quando vedo quelle faccine è inevitabile, no? Siamo genitori, vedere, no? La propria figlia ci ha toccato nel cuore. Andiamo, allora, sì, Vincenzo Fabio. Napoli. Ok, Vincenzo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, no, il mio intervento è un intervento positivo, nel senso che con un po' di razionalità, perché... Alla fine forse la statistica ci dice che quando la mattina scendiamo di casa e utilizziamo l'automobile c'è una probabilità di avere un incidente e di morire, perché sappiamo che le vittime stradali sono ben oltre quelle che sono le vittime per incidente terroristico, per attacco terroristico. Certo. E quindi se uno ragiona con un po' di razionalità, noi la mattina l'automobile la prendiamo e non ci pensiamo a questo. E lo stesso bisognerebbe fare con il muoversi, con continuare a viaggiare, continuare a vivere nella normalità, anche perché questa è la migliore difesa, forse l'indifferenza. Questa è la ricetta di Vincenzo. Il problema è che noi spesso abbiamo paura delle cose che non riusciamo a controllare, abbiamo più familiarità con tutte le situazioni che pensiamo, e sottolineo pensiamo, di poter tenere sotto controllo. Ma abbiamo anche sì, Fabio. Sì, anche Fabio. Fabio da Milano, buongiorno. Fa la gente di viaggio. Voi. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Il mio intervento sarà... per specificare che noi siamo un po' da filtro tra il cliente che ha delle aspettative di vacanza, relax e gioie e invece gli eventi esterni, e in questi giorni ci stanno già ritornando indietro clienti preoccupati per le vacanze anche di luglio, agosto, già di settembre, e con tutte le loro motivazioni. Siamo abituati perché dal Torre Gemelli in avanti ogni anno c'è sempre un evento che ci mette sul campo, e ognuno realtà ha i suoi problemi e ognuno cerca sempre di trovare conforto in noi e devono essere rassicurati. So che per fare questo lavoro, Fabio, eseguite anche, oltre a dei corsi sulle tecniche di vendita, che sono affiancati anche da percorsi di come dire, profilo psicologico, sul quale adesso Pier Giorgio Reggio ci dirà qualcosa di più. E allora sì, adesso è proprio tardi, è proprio tempo di andare a raccontare la borsa. A tra pochissimo. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio Alto Rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Impotenza, frustrazione, sgomento, paura, rabbia, senso di ingiustizia, sono tante le emozioni che proviamo quando ci troviamo di fronte a situazioni avvertite come pericolose per la nostra sicurezza, addirittura per la nostra vita e soprattutto per quella delle persone che vivono accanto a noi, che ci sono particolarmente care. L'incidente che è costato la vita alle ragazze in Erasmus ci tocca in modo diverso, ma ugualmente profondo di quello degli attentati. Chi è genitore sicuramente si sarà identificato in questa tragedia, nel viso delle ragazze sorridenti avrà visto quello della propria figlia e forse nel sentire il messaggio dei genitori di una delle ragazze rimaste vittime dell'incidente, io e mia moglie andiamo a casa e ci ammazziamo, ha provato sicuramente una forte empatia, forse l'ha anche condiviso, quasi no? Non siamo geneticamente programmati, diceva qualcuno, per superare la morte di un figlio. Vogliamo anche confrontare questi tipi di preoccupazioni, di angoscia, di dolore che ci provocano questi due fatti, che sono diversi, geograficamente diversi, hanno cause diverse, ma generano in noi, ci destabilizza. Si è aggiunto ai nostri esperti Alberto Pellai, che tra l'altro è in aeroporto. Alberto. Nicoletta, sì, sono qua in aeroporto, ecco, in attesa di un volo. In attesa di un volo, che atmosfera respiri? Ma guarda, c'è proprio una tranquillità, questa non è l'ora di punta, quindi in realtà non c'è moltissima gente intorno, ma le persone stanno andando avanti, come credo che sia giusto che sia. Allora, ragazze, sono Marco da Milano, ci scrive subito un ascoltatore. Ho mia figlia di 17 anni che settimana prossima dovrebbe andare 4 giorni a Parigi. Che fare? Ecco, è una domanda che potrebbe coinvolgere tutti e tre i nostri esperti. Cominciamo con Pier Giorgio Reggio, agganciandoci anche alle considerazioni fatte dall'agente di viaggio, Fabio da Milano, che dice alla fine chi fa il nostro lavoro? E in realtà questa è una considerazione che riguarda molte professioni, che oggi devono accompagnare le proprie competenze tecniche, anche quelle di carattere psicologico. Reggio. Sì, assolutamente. In queste situazioni ci ritroviamo spesso a dover dare quella sicurezza, quella parola di, diciamo, di tranquillità per chi è prossimo ad un viaggio, che sia di lavoro o che sia un viaggio di piacere, perché la richiede la ricerca in noi. Spesso è talmente personale però che è anche difficile ed è nostro compito anche comprendere qual è lo spirito con il quale la persona che ci sta davanti sta per affrontare il proprio viaggio, naturalmente con le dovute differenze tra quello che è un viaggio di lavoro e un viaggio di piacere. Però è per noi fondamentale e tutti i nostri professionisti naturalmente partecipano anche da questo punto di vista ad aggiornamenti professionali, perché sempre più frequente per noi avere anche un approccio positivo, realistico ma positivo nei confronti delle persone che seguiamo. Per questo papà preoccupato che deve mandare sua figlia 4 giorni a Parigi, lo so che ogni raccomandazione è, come dire, non voglio dire banale da parte nostra, perché poi dobbiamo anche calarci in una situazione, certo, di questa il famiglia. Il papà rivivrà però, la situazione delle ragazze, ha paura degli attentati, ci sono due paure che si intrecciano e si mescolano, il desiderio di proteggere, l'ansia che ti viene tutte le volte che non puoi controllare qualche cosa, i figli noi non possiamo controllarli, a un certo punto scappano, esatto, quindi ci sono tante sfaccettature che facciamo un giro dei nostri esperti. Dottor Reggio. Ma sa, la paura, come dicevamo prima, è talmente soggettiva. Io insomma posso dire a livello personale, oggi ho portato mia figlia in metropolitana per andare a scuola e banalmente il pensiero è andato, ma soprattutto è lei che mi ha chiesto se la metropolitana di Milano era sicura. Io ho dato naturalmente il massimo della tranquillità e della sicurezza a mia figlia, proprio perché non possiamo vivere in uno stato di paura. capisco che non sia facile, capisco che sia difficile, certo. Ma anche quello che noi trasmettiamo ai nostri figli, secondo me, diventa anche un valore. Alberto, su questa linea sicuramente so che tu sei assolutamente d'accordo. Ma sì, io credo che i nostri figli devono davvero imparare ad avere non solo radici, ma anche un paio di ali, e quindi devono diventare esploratori della vita, del mondo, delle relazioni. Noi genitori, come tendenza, vorremmo tenerli sempre vicini, perché se li abbiamo vicini a noi ci sentiamo capaci di controllare qualsiasi evento imprevedibile. Ma chiaramente questa è una strategia completamente irrazionale e soprattutto non fa bene a un figlio, perché un genitore per un figlio deve essere un allenatore per la vita che c'è fuori casa, non per farlo vivere chiuso dentro casa. Professor Sbattella, però è fisiologico, è naturale, quando sperimentiamo una forte paura, come quella che stiamo sperimentando in questi giorni, facciamo i conti con quello che gli psicologi chiamano evitamento, cioè evitiamo, cerchiamo di evitare le situazioni che per ragioni diverse riteniamo più rischiose, quindi in questo caso c'è chi eviterà i viaggi, i luoghi affollati, il metro, a chi ad esempio starà pensando di non mandare il figlio in gita, se lo farà dovrà fare i conti un po' con una forte preoccupazione. Non è qua il caso di dire si fa bene con questa versione o per l'altra, ma di fare proprio una riflessione, un pensiero che può aiutarci in qualche modo a uscire da questa situazione. Sì, come dicevo, la paura ha un valore adattativo, aiuta la vita e conduce alla gioia se ci aiuta a imparare a stare al mondo, se, è un'occasione per sviluppare degli apprendimenti su come guardare le cose, valutare e scegliere e poi agire. Allora, se la paura è in maniera indiscriminata e vaga rivolta a tutti, a tutta Parigi, a tutte le metropolitane, a tutti gli orari, ecco che è assolutamente disfunzionale. E se l'evitamento è un evitamento di tutto in maniera vaga, è disfunzionale. La cosa importante è riuscire a porre delle differenze e a decidere quali sono gli indicatori di rischio di paura. Allora, se io sono in metropolitana con un bambino, posso aiutare con lui a vedere che la linea gialla ci difende dal pericolo di cadere dentro. Se sono con un bambino in metropolitana, posso far vedere che ci sono degli estintori o ci sono dei pulsanti che ci aiuteranno, perché noi siamo in grado di aiutarci e il posto è sicuro, perché concretamente, aprendo gli occhi, vediamo degli strumenti di sicurezza. Se devo andare a Parigi, se devo andare in metropolitana oggi e sono in ansia, bene, posso fare una cosa molto concreta: smettere di guardare il cellulare, lo smartphone, metterlo giù e guardare la gente che è attorno a me, non con sospetto ma con curiosità, perché tenendo gli occhi aperti nel contesto in cui sei, sai dove ti puoi muovere e sai che risorse puoi mettere in campo. Poi ognuno, rispetto ai suoi strumenti di sicurezza nella vita, potrebbe alzare di una tacca, semplicemente l'asticella dei suoi comportamenti di sicurezza. Quindi se hai visto un incidente stradale, in un autobus in cui la gente si è scantata, se vuoi fare un apprendimento per te e per gli altri, stai più attento ad a chiudere le cinture di sicurezza anche dei passeggeri. Non è che eviti gli incidenti, però, non certo. È che porti indietro la storia di quello che è successo purtroppo ad altri, però è un segno anche concreto di miglioramento del mondo per sé e per quelli che stanno accanto. Alberto, parola chiave: informazione, chiarezza, per metabolizzare anche queste emozioni che rischiano, no, di tenerci in gabbia. Tu tra l'altro stai dando alla stampa un libro, Parlare di Isis ai bambini, che è scritto insieme ad altri autori, in cui inviti proprio i genitori a riflettere su come comunicare questo tema ad un figlio. Perché e noi riteniamo, considerate la situazione, che un genitore deve imparare a farlo e si faccia le giuste domande e trovi le parole corrette. Alberto. Ma credo che sia importante intanto dare ai figli in questo momento una chiave di presenza nel mondo, finalizzata a sentire che hanno un ruolo nel costruire alleanze, cooperazione e solidarietà, e in qualche modo anche a preservarli invece da quella scia di paura, terrore e distruzione in cui finiamo di rischiamo tutti di rimanere intrappolati. Credo che ci sono due o tre frasi che molto frequentemente si sentono dire e che in termini psicologici si chiamano generalizzazioni. Ad esempio? Ci sono dei terroristi islamici che fanno un attentato, tutti gli islamici sono persone che possono fare attentati, ci possono fare del male. Ora, se i nostri figli vivono in una scuola dove c'è la presenza di molte altre etnie, dove ci sono progetti di integrazione e cooperazione, dove quei bambini giocano con lui dal primo giorno di scuola, noi abbiamo già proprio smantellato questa falsa credenza e abbiamo proprio il dovere come genitori ed educatori di non mettere dentro i nostri figli un germe che in realtà li farebbe vivere male, cioè invece che costruire un assetto cooperativo li porterebbe invece in una zona di agonismo, competizione, se non addirittura conflitto e guerra con una persona che gli vive di fianco. Questo è un esempio, esattamente come molti commenti di noi adulti in questo momento sono a parole: non si può più vivere, non abbiamo più un futuro e un domani, e contemporaneamente le nostre facce, i nostri volti comunicano angoscia e terrore mentre guardiamo queste notizie. Ora proviamo a immaginare che noi siamo su una nave nella tempesta. Il capitano che ha in mano il timone e la direzione della nave deve essere una persona che ci comunica autorevolezza e controllo. L'adulto è il capitano della vita dei figli. Se noi rimaniamo immersi in balie nel flusso di informazioni molto pesanti che cambiano il nostro modo di parlare e cambiano il nostro modo di mostrarci ai nostri figli, quindi diventiamo adulti spaventati e spaventanti, è chiaro che dentro di loro cambia anche la percezione del mondo. Allora, lasciamo Alberto Pellai che deve volare a prendere un aereo e tornerà presto da noi in diretta qui. Grazie Alberto. Grazie molte. E noi sì, andiamo a sentire che cosa traffico. Sta succedendo sulle Faccio strade. Faccio solo un piccolo preannuncio, un annuncio, perché c'è un ascoltatore di Venezia che ci scrive: sono un commerciante, ogni volta che c'è un problema di terrorismo o economico, vedi Brexit o Grexit, il turismo europeo rallenta molto e gli incassi scendono vistosamente. Noi cinicamente anche di questo dobbiamo occuparci, perché poi sono anche queste le conseguenze di tutte queste storie che commentiamo ogni giorno, e questo è il tema che commenteremo tra poco con un altro ospite che ci raggiungerà, Andrea Giannetti, presidente di Federturismo Confindustria Travel. E naturalmente raccoglieremo le vostre testimonianze, esatto, dubbi, domande, racconti all'800 24 00 24 per parlare anche con i nostri esperti. A tra poco. Cuore e denari. Nicoletta, un hola per Fabrizio, simpaticissimo ascoltatore che ci scrive. Parto per Parigi domani l'altro. Non vedo l'ora di andare a trovare mia figlia che studia là e per la prima volta porto anche i miei genitori di 84 e 79 anni. Quando si dice voler esorcizzare ogni tipo di paura, mi pare che Fabrizio abbia colto pienamente il messaggio. E poi c'è anche un altro che ci piace di messaggio. Dite al padre di quella ragazza che deve andare 4 giorni a Parigi che rischi maggiori lì correrà in macchina con lui quando l'accompagnerà in aeroporto. Allora, velocemente, Andrea Giannetti, presidente di Federturismo Confindustria Travel, buongiorno, come state gestendo dal punto di vista operativo queste ore così delicate in cui molti cominceranno e stanno già cominciando a farlo, a chiedersi se riprogrammare viaggi, vacanze, spostamenti in Europa e fuori, non solo nell'immediato ma forse anche nelle prossime settimane? Quali sono le vostre considerazioni? Gliele chiedo anche in relazione ai turisti che si muoveranno verso l'Italia per Pasqua, perché non ci dimentichiamo che il richiamo di Papa Francesco è ancora fortissimo. Anche da questo punto di vista, i fatti di Bruxelles non solo come possono condizionare questi movimenti. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei. Esatto. Auguri anche a lei. Un momento inquietante, ma comunque ormai non ci possiamo abituare, ma viene rinnovata questa inquietudine, questa afflizione ogni talvolta accadono queste cose. Innanzitutto la prima gestione operativa su tragedie di questo genere, quando colpisce un sistema aeroportuale e mette in crisi il sistema dei trasporti aerei, è stata quella di proteggere i passeggeri che avevano voli che passavano via Bruxelles o che avevano gli aeromobili che transitavano. E questo aspetto lo abbiamo già trattato, Giannetti, mi scusi se sono così brutale, ma solo per non farle ripetere magari considerazioni già fatte. Proprio sul tema poi turistico italiano, questo momento voi come lo state vivendo adesso? Beh, ancora è presto per giudicare qualsiasi reazione. La norma è che venga rinnovata la prudenza sugli spostamenti che vengono fatti. Evidentemente è una cosa, purtroppo, ormai che si è rinnovata più volte nel tempo, e anche questa volta non farà eccezione. Si riprogrammeranno le vacanze sulle aree che vengono dalle varie persone ritenute a rischio che debbono viaggiare, poi verranno spostate quelle che sono sotto programmazione da chi non se la sente di spostarsi. Devo dire che al momento grandi progetti di cancellazione non ci sono. Cosa diversa è se noi siamo soggetti a questo tipo di attenzione e di rifiuto da parte dei turisti che devono venire in Italia, se il ragionamento dovesse seguire quello che è l'andamento del mercato italiano, una flessione ci sarebbe. Molti turisti europei confermano e non hanno accennato a cancellare le prenotazioni in atto, per cui si presuppone che si rimanga sulle linee che avevamo. Benissimo. Evidentemente gioca a favore la posizione che spesso assume il governo americano, con delle forti, secondo il mio parere personale, responsabilità, di invitare gli americani a rimanere a casa. Se tutti rimaniamo nelle nostre case, sicuramente otterremo il risultato di non rischiare la morte, ma certamente rischiamo la capacità di vivere giornaliera. Questi inviti dei governi sono chiaramente per il turismo un grave danno. Il mio parere personale è che sono un danno proprio alla qualità della vita che ognuno di noi, cittadino del mondo. Grazie. Grazie ad Andrea Giannetti, che si allinea un po' alle riflessioni e considerazioni, Nicoletta, no, che abbiamo cercato di fare fino a questo momento, sempre nel corso della nostra puntata, con la prudenza e rispetto anche di chi la pensa diversamente. Allora è tempo di raccogliere le ultime battute. Io affiderei un po' la chiusura ai nostri ospiti con un messaggio, un pensiero da condividere ancora con i nostri ascoltatori, su cui magari riflettere anche nel corso della giornata. Professor Sbattella. Sì, direi che l'invito alla vita, al coraggio, è un invito importante. E il coraggio si costruisce anche nella solidarietà umana, nella vicinanza delle relazioni, tanto più quelle calde, quelle affettive, e quindi una grande risorsa dell'umanità contro la violenza, la follia omicida, che è sempre esistita purtroppo ed esiste ancora, contro la guerra, che è la più grande catastrofe dell'umanità. Bene, la risorsa migliore è proprio la vicinanza umana e la curiosità, che anche passa ad esempio dal turismo, no? Se vuoi vincere la violenza, forse è bene che fai un pellegrinaggio, che ti muovi, che esci da casa tua e vai a conoscere qualche cosa vicino. È anche un gesto di solidarietà, di coraggio. È una presenza. Certo. È una presenza. Questo direi che è molto importante. Ancora un invito alle non generalizzazioni, e quindi evitate i pericoli, indubbiamente, ma cercate di capire innanzitutto dove si celano e come possiamo contrastarli, quelli che possiamo contrastare, e gli altri invece li gestiremo successivamente. Non riusciamo purtroppo a sentire Ruggero da Padova e Maria da Verona, che salutiamo affettuosamente e ringraziamo per aver voluto comunque condividere con noi la loro considerazione. L'ultimo commento a Pier Giorgio Reggio: intanto non andate a caccia di assicurazioni per turistiche, appunto, contro gli attentati, perché queste non ce ne sono, Reggio, no? Questo no. Ricordiamolo. Ma io volevo, se possibile, chiudere dando un'indicazione che operativa vuole essere pratica, operativa e pratica. Credo che in queste situazioni, soprattutto in queste situazioni, ma direi quotidianamente, ognuno di noi deve fare la nostra parte. Quindi in questo caso mi rivolgo a tutti coloro che sono prossimi a un viaggio, soprattutto a un viaggio che implica un trasporto aereo. I controlli di sicurezza naturalmente in questa fase verranno amplificati, quindi chiediamo la massima tolleranza, attenzione. Noi come Blue Team pubblichiamo sempre quelle che sono le normative per il bagaglio a mano, invitiamo chiunque ad andare negli aeroporti, nei siti degli aeroporti, per controllare e fare in modo che i controlli di sicurezza siano più agevoli per sui tutti. Sui liquidi non dovete essere sorpresi, perché sapete benissimo come funziona da molti anni a questa parte, quindi non portatevi come sempre dietro super profumi e deodoranti che poi dovete lasciar lì. Prima raccomandazione. Allora noi ci sentiamo domani sempre alle 10:30. Buon pomeriggio a tutti da Nicoletta e Deb.